Oggi è la terza domenica d'Avvento che ci incoraggia alla gioia, no? Al tempo che per sé ha anche una caratteristica di penitenza, no? Per la preparazione alla venuta di Gesù si interrompe questo clima di meditazione, diciamo così, penitente. Per ascoltare questo grido, questo canto, questa esultanza. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia. Israele esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme, il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. Vedete, nella domenica di oggi il Vangelo è centrato su Giovanni Battista e quella parte del Vangelo di Luca dove Giovanni risponde alle folle che gli chiedono che cosa dobbiamo fare. Ecco, e a me piace vedere comunque che già in questa liturgia, come in fondo potremmo fare sempre, è presente Maria, cioè c'è una dimensione mariana sottesa a queste cose che noi leggiamo oggi nella liturgia. E la dimensione mariana che mi piace vedere nelle parole di Giovanni alla folle, no? Che sono parole molto semplici, e la dimensione e il fatto di pensare che Giovanni il Battista sia stato non solo in quel brano del Vangelo che leggiamo, la visita di Elisabetta, ma anche, ecco, molto legato a Maria, ma anche probabilmente negli anni successivi, no? Ci sono tante espressioni artistiche di Gesù bambino che derivano sicuramente dalla narrazione dei Vangeli apocrifi, ma può essere anche, insomma, anche comprensibile che possano esserci stati dei lunghi periodi di Gesù e di Giovanni insieme. E quindi Maria che ha aiutato anche nell'educazione Giovanni, no? Per cui quando Giovanni dice, oggi lo leggiamo nel Vangelo, maestro, cosa dobbiamo fare? E lui dice, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato, i pubblicani, no? Perché certo loro era fissato molto, no? E quindi era gente già ricca. E quindi diceva, ecco, come dire, non essere esosi e non commettere ingiustizie, no? Nel loro lavoro di esattori delle tasse. E lo interrogavano anche alcuni soldati, noi cosa dobbiamo fare? Non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Sono consigli molto semplici, molto concreti, e nei quali, se vogliamo, possiamo vedere un clima di santità accessibile della famiglia di Nazareth. Il desiderio così di giustizia semplice, di bene, no? che aleggiava nella Sacra Famiglia e che anche Giovanni respirava, e ovviamente anche nella sua famiglia, no? L'insegnamento di Elisabetta e di Zaccaria. Ma prima ancora, quando nella prima lettura si legge questo invito alla gioia, rallegrati figlia di Sion. Ecco, noi sappiamo bene che questa questa frase si riferisce o veniva intesa come riferita a Gerusalemme, no? Però poi la Chiesa lo applica a Maria. E probabilmente è uno di quei testi, o forse il principale, no? Che poteva avere in mente Maria quando l'angelo entra da lei per l'annuncio di questa vocazione sublime e inaspettata. Caire, no? Che caritomene, cioè rallegrati piena di grazia, no? E il Signore è con te, dice l'angelo. Allora, questo il Signore è con te assomiglia abbastanza a questo il Signore è in mezzo a te. Il re di Israele è il Signore in mezzo a te, e tu non temerai più alcuna sventura. Quando riflettevo un po' su queste cose nello scrivere il libro su Maria, chiesi appunto a un esperto di ebraico che andò a cercare, effettivamente su mia richiesta, questo l'originale ebraico di questo testo, e nel vedere come viene espresso questo in mezzo a te, il Signore in mezzo a te, e vide che quella parola è proprio una parola che viene usata per dire qualcosa che sta nell'intimo della persona, quella realtà, quel luogo più profondo della persona dove nasce il respiro, no? Dove quindi quindi può avere benissimo questo significato, anche se questo significato applicabile a Maria, alla quale viene annunciato il fatto che il Signore desidera abitare dentro di lei, proprio lì, stare dentro di lei, no? In mezzo a te, ma dentro di te, il Signore è con te. Come è stato profetizzato, no? In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere Sion, non lasciarti cadere le braccia, il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Naturalmente quando, se Gerusalemme viene intesa come la città, come una donna, evidentemente il Tempio di Gerusalemme, dove c'è una presenza del Signore così importante, può essere paragonato appunto alla donna che aspetta un bambino, no? E quindi noi ci avviciniamo al Natale ascoltando Giovanni Battista, che ci incita a preparare le vie del Signore e che dice, come leggiamo oggi nel Vangelo, che si chiedono, chi gli chiedono se lui è il Cristo, lui dice no. Io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E allo stesso tempo ci prepariamo a Natale ascoltando Maria, ascoltando la gioia di Maria, cioè intuendo la gioia di Maria, insomma, contemplando la gioia di Maria. E questo aspetto della gioia di Maria è aiuta a considerare che Maria ci è vicina, no? Maria ci è madre, e quindi noi siamo abituati a ricorrere a lei, no? Quando, come dice San Paolo oggi nella messa, dice, leggeremo quest'ulteriore incoraggiamento alla Letizia, no? Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, la vostra amabilità sia nota a tutti, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Quindi noi siamo abituati a chiedere a Dio tutto, no? Cioè, non siamo forse molto abituati a non angustiarci per nulla, perché invece questo ci viene molto spontaneo, molto naturale. E siate sempre lieti nel Signore, e questo è, cerchiamo di farlo, ma a volte non è facile. La vostra amabilità sia nota a tutti, anche questo è, insomma, penso che sia un impegno da parte di tutti, e si nota, qualche volta possiamo perdere qualche grado di amabilità, no? Sempre a causa magari dell'angustia, no? Non angustiatevi per nulla, in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Quindi noi, penso, no, di poter dire il noi, perché siamo abituati alla preghiera, no? Quindi se c'è un'angustia, tutto sommato il collegamento, devo pregare, ecco, non so quanto è naturale, spontaneo, frequente, però lo facciamo abbastanza spesso. E l'invocazione, l'inginocchiarsi, il chiedere preghiere ad altri, e forse l'ultima parte è anche i ringraziamenti. Forse questo, non lo so se viene un po' meno spontaneo, oppure meno spontaneo metterlo insieme, no? Preghiere, suppliche e ringraziamenti insieme, e a questo possiamo pensare, possiamo chiedere l'aiuto al Signore, proporci di Signore, quando ti preghiamo, anche ringraziare, come ci insegna la messa, nella tutte le preghiere ci invita a supplicare, ma allo stesso tempo a ringraziare. E allora, in questo senso, Maria si inserisce, no, in questa logica di figli di Dio che scoprono di avere Maria come madre, e quindi chiedono a lei l'intercessione. Questa è una realtà molto profonda del popolo cristiano. Quindi quando noi la conosciamo come causa della nostra gioia, e come mediatrice di tutte le grazie, quindi logicamente le chiediamo, ecco, andiamo da lei, no? Il famoso Voca Maria, no? Di San Bernardo. Guarda Maria, invoca Maria, cioè nelle tempeste della vita, quella preghiera famosa di San Bernardo che dice così, no? E non ti preoccupare, guarda Maria, e invoca Maria, e aggrappati a Maria, no? Nelle tempeste della vita. Allo stesso tempo penso che Maria, nostra madre, e vi ricordate che anche il Papa quando parla di lei, per esempio in questo libro in cui commenta l'Ave Maria, un'intervista, e si vede che gli sta molto a cuore la dimensione della normalità, no? Di Maria. Da quando è nata fino all'Annunciazione, al momento dell'incontro con l'angelo di Dio, me l'immagino come una ragazza normale, una ragazza di oggi, una ragazza, non posso dire di città perché lei è di un paesino, ma normale, normale, educata normalmente, aperta a sposarsi, a fare una famiglia. E poi si immagina che ami le scritture. E anche più avanti, quando l'intervistatore gli fa una lunga domanda, lui risponde semplicemente con questa parola, no? Maia è una donna normale, no? Allora, in questa normalità di Maia c'è il desiderio di essere amata, no? C'è il desiderio di entrare in comunione con noi, sia nella normalità tua, Maia, c'è questa, cioè Maia è una donna. Una ragazza, no? Prima ancora che donna, vivace, piena di esuberanza e che, come la vediamo in questo correre da Elisabetta in fretta, no? Che ha bisogno di dare una mano, ma ha bisogno anche di comunicare quello che le è avvenuto, di poter parlare liberamente. E quindi Maria desidera stare con noi come una madre con sua figlia, ma anche come un'amica con l'amica, un'amica con l'amico, una madre con il figlio. No? Però, quindi, quanti discorsi ci immaginiamo, no? Possono aver fatto Maria e Elisabetta in quei 3 mesi, no? Hanno anche lavorato molto, non hanno solo parlato. Però si sono confidate molte cose e questo il Vangelo ci dà solo un piccolo spaccato per poi tutto il resto della vita normale di Maria è stata piena di relazioni, di amicizia, no? Di amicizia. Ci pensiamo alle donne che seguono Gesù e possiamo immaginarci proprio Maria vicino a ciascuna di loro con un ruolo da amica, che poi diventa anche madre. E a noi questo piace molto, no? E a noi piace il dialogo, piace l'essere in relazione, l'essere in comunione, no? E Maria, tu adesso sei nella Trinità, partecipi, come anche partecipa ciascuno di noi, nella grazia, anche se con una comprensione relativa, magari dimenticandocene spesso, alle processioni intra Trinità. Tu sei madre del figlio, quindi hai un ruolo unico tra il padre e il figlio, il padre che genera eternamente il figlio e tu lo generi secondo l'umanità nel tempo. Per cui tu sei in modo particolarissimo dentro la Trinità. Hai un ruolo vicino a quello dello Spirito Santo, che è l'amore tra il Padre e il Figlio. Insomma, sei nel cuore della Trinità, possiamo dire. Allora, sei nel cuore della comunione più importante e desideri con noi, con i tuoi figli, di avere questa comunione, quindi sia come madre che desidera parlare con i figli, desidera che i figli abbiano confidenza con lei, sia come madre di Dio, no? Madre di Dio, che è padre, che desidera avere un dialogo con i figli, avere una comunione con i figli. Gesù è stato mandato da noi perché noi potessimo avere questa comunione con Lui e quindi con tutta la Trinità. Quindi sia da un punto di vista umano che da un punto di vista soprannaturale, Maria desidera la nostra amicizia, no? Quindi la nostra confidenza, non solo che ti chiediamo suppliche, preghiere e ringraziamenti, ma anche la nostra apertura del cuore, no? Possiamo fare come Elisabetta, come Zaccaria, come Giuseppe, che a un certo punto in questa storia, è stato nella storia prima del Natale, trovano il modo di confidarsi con lei, no? Elisabetta lungo quei 3 mesi e Zaccaria scrivendo qualche tavoletta, e poi dopo finalmente quando riacquista la voce con quel canto che poi la Chiesa continua a recitare, il Benedictus, in cui in fondo profetizza, no? La nascita di Gesù, grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, dice Zaccaria, ci visiterà un sole che sorge dall'alto, no? Beh, e Zaccaria ha fatto l'esperienza della tenerezza e della misericordia del nostro Dio proprio con Maria per 3 mesi in casa sua, no? Ci visiterà un sole che sorge dall'alto per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra di morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. E effettivamente, lui stesso, Zaccaria, per primo ha fatto questa esperienza, che quella presenza di Maria e quel bimbo che sta per nascere, che si sta formando nel suo grembo, anche per lui è stata una luce, no? E anche un orientamento alla pace, dirigere i nostri passi sulla via della pace. Ci sono tanti riferimenti alla pace anche oggi. San Paolo dice: la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E una strada per arrivare alla pace, no? È proprio la confidenza nostra con Maria. Proviamo a pensare se in questi giorni, non solo la recita del rosario o altri momenti mariani come la recita dell'Angelus a metà giornata e altri momenti in cui invochiamo Maria, in cui baciamo una sua immagine, in cui le affidiamo un'angustia del cuore, no? Che possiamo fare. È una cosa bellissima, possiamo fare sempre di più, però non è solo lei, penso che lei non voglia essere solo per noi, o desideri non essere solo madre del soccorso, no? Ma anche madre di comunione, cioè. E quindi che lei desideri che noi siamo in comunione con lei. In comunione di amicizia, no? Le possiamo confidare le realtà più intime, probabilmente già lo facciamo alcune volte, ma questo Natale, questo Avvento, no? Questi giorni possono aiutarci a farlo molto di più. Se noi ci immaginiamo che in fondo, essendo lei nostra madre, noi potremmo stare nel suo grembo come Gesù sta, no? Quindi è con l'intimità del bimbo con la madre, in generale, tutti noi, no? E sono cose che abbiamo dentro che non ricordiamo perché evidentemente non le ricordiamo, però che ci sono questa intimità e questa comunicazione specialissima che c'è del bimbo con la madre durante i 9 mesi di gestazione. Però da un punto di vista spirituale noi possiamo pensare, io posso stare nel grembo di Maria e quindi avere una comunione con lei continua e quindi comunicare tutto quello che è la mia vita a lei, no? Le cose belle, non solo le cose angustiose, no? Ma anche tutte le cose belle, tutti i desideri del nostro cuore, tutte le, senz'altro, tutte le preoccupazioni della nostra anima, ma anche i grandi desideri e tutte le gioie, no? Tutte le gioie. Le gioie le condividiamo con lei, no? Le condividiamo con lei, come fanno le grandi amiche, no? I grandi amici, come fanno i figli che hanno una buona relazione con la madre, no? E penso che Maria può essere molto, molto contenta di questa, è proprio felice che noi le confidiamo tutto e anche, se vogliamo, ascoltiamo le sue confidenze, no? Come succede nell'amicizia, che è una realtà reciproca. Ascoltiamo le sue confidenze, quello che lei desidera, quello che lei ha a cuore, e quello che lei ci ispira. E così possiamo vivere una bellissima terza domenica d'Avvento e anche i giorni successivi insieme con lei.